This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami, I love Italy, yeah, yeah, yeah. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy, dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte. E il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy il 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia, grazie. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta, e chi è che ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna. Lo introduciamo con la sua voce. Oggi c'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no? Del cantiere del signor Canali, che me la mise a disposizione. Dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non fosse, arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visitare, dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, e sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. E introduciamo appunto il personaggio del giorno e del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di in politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento. Quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio, ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2, che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2. Ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai. E lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo, ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana. Secondo me è stato il più grande editore televisivo che l'Italia ha mai avuto, perché la Rai faceva da monopolio. Lui pensò che era possibile creare una TV privata, che era possibile permettere a nuovi inserzionisti di entrare e pubblicizzare il proprio marchio in televisione, cosa che in Rai non era concesso, perché c'erano le solite 30 marche e quindi i piccoli imprenditori erano esclusi. Lui, oltre a valorizzare il sistema radio televisivo, a renderlo moderno, più al passo coi tempi, stile Stati Uniti, ma permise anche a piccoli imprenditori di diventare importanti, perché grazie al loro marchio potevano fare pubblicità sulle sue reti, che ai tempi facevano parte della società Fininvest, e ottenere nuovi clienti. Lui ovviamente cresceva, ma crescevano anche i piccoli imprenditori. Quindi mentre la Rai aveva 30 inserzionisti, l'allora Fininvest ne aveva 200. E quindi questo è stato, Berlusconi è stato un grande, a mio avviso, visionario, un grande uomo d'affari, un grande imprenditore che ha saputo capire come sarebbe andato il gusto degli italiani, verso in che modo gli italiani avrebbero apprezzato una televisione, perché la Rai forniva ormai un servizio molto vecchio, stantio. Lui invece è stato grandissimo, perché ha capito le esigenze degli italiani, che cosa gli italiani volevano vedere in TV. Lui l'ha proposto e ha portato il modello americano in Italia, e ora grazie anche a lui io posso essere qua vicino a un microfono e parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.